Radio 24. Libera la voglia di fare. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Via del Gran Premio d'Italia che scatta adesso, via, sono partiti con Lewis Hamilton, con Ocon che si fa vedere sulla Stroll, con la Stroll che ha dato un po' di fastidio a Hamilton, un po' quello più aggressivo, di dietro Vettel così, con Raikkonen che va all'attacco all'esterno di Valtteri Bottas, con Ocon alle spalle di Lewis Hamilton, va a largo Felipe Massa, ci prova Raikkonen a tenere la posizione su Valtteri Bottas, vanno ruota a ruota verso curva grande con Bottas che ha leggero vantaggio di macchina, gliel'ha concesso per un po' Kimi Raikkonen, adesso all'interno Valtteri Bottas, all'esterno Kimi Raikkonen, ci prova Kimi Raikkonen all'esterno a tenere la posizione su Valtteri Bottas, arriva dietro anche Sebastian Vettel che ci proverà, forse è staccata da dentro, molto deciso, è vicinissimo, okay. Lo attacca subito e la tiene. Che cosa ha fatto Ricciardo? Era lontano, in staccata si è attaccato di un lampo con gomma più, con più grip, ma non ha voluto perdere tempo, non ha concesso respiro a Kimi Raikkonen, forse non si aspettava che gli entrasse subito così. Ultima curva e Lewis Hamilton vince il Gran Premio d'Italia, 59esima vittoria della carriera per Hamilton, quarto successo nel Gran Premio d'Italia come Nelson Piquet, meno uno da Michael Schumacher, leadership del mondiale preso, la Mercedes ha fatto quello che si aspettava di fare qua. Eccoci qui, 17.08, rigorosamente in diretta. Buon pomeriggio a tutti, c'è Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao, ciao a tutti. C'è Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport, che saluto subito, ciao direttore. Ciao a tutti. Abbiamo condensato in meno di un minuto il Gran Premio d'Italia a Monza, adesso proviamo ad analizzarlo, però vi do subito i contatti di questa domenica, siamo in onda fino alle 18.45, non una domenica bellissima per lo sport italiano. Adesso parliamo della Ferrari, dopo le 17.30 con grandi ospiti parliamo di Spagna e Italia di ieri sera e la lanciamo subito, l'abbiamo già lanciata sui nostri social, Twitter e Facebook, siete con Ventura o contro Ventura, però dovete scrivercelo. Ben motivato senza vie di mezzo, 800 24 00 24 per chiamarci, di intervenire in diretta, oppure 349 238, sms, whatsapp, insomma avete tutti i canali che volete per risponderci. Con Ventura o contro Ventura, vi aspetto. Prima però partiamo dai motori, bisogna farlo perché la stretta attualità. Allora, quanto tempo hai detto che hai condensato il Gran Premio? Meno di un minuto. Ma è meno di un minuto, 50 secondi. Poteva fare anche in 12 secondi, tanto è andata come doveva andare, sapevamo da ieri. Secondo me, direttore, si poteva fare in questi 24 secondi che ti faccio sentire adesso di Marchionne dopo la gara, i primi 24 secondi sul suo giudizio su come si è andata oggi la Ferrari. Sì, ma c'è un problema di base qua che bisogna risolvere, perché non riusciamo oggi, è stato quasi imbarazzante vedere questa differenza tra la Ferrari e la Mercedes. Quindi lo sviluppo sarà fondamentale adesso? Il weekend scorso era diverso, no? Ricordiamo, qui era il capovolto, qualcosa abbiamo sbagliato negli scorsi 7 giorni, non so cosa, ma bisogna capirlo. Cosa è successo, direttore? È successo che a Spa è andata molto meglio di quello che credessimo e a Monza è andata molto peggio di quello che credessimo e pensassimo che la differenza c'è ancora, ci eravamo illusi che sulle piste veloci il distacco si fosse azzerato quasi, e invece evidentemente la Mercedes aveva giocato col suo motore a Spa e qui ha trovato la combinazione perfetta su una pista che sapevamo difficile per la Ferrari, però io devo dirti che nonostante il naufragio in qualifica, certo, vedevo poi impossibile una vittoria, però non mi aspettavo neanche 30 secondi a rotte di distacco in gara. E poi ne ha presi 36 Vettel e un minuto Raikkonen, 36 secondi Vettel e un minuto Raikkonen. Posso dirti una cosa? Io trovo una similitudine, magari un po' forzata, tra l'Italia del calcio e la Formula 1 e la Ferrari. Cioè, ieri abbiamo perso, siamo diventati più sfigati del pianeta. Abbiamo complesso l'inferiorità nei confronti della Spagna e nei confronti della Mercedes. Forse una via di mezzo sarebbe la soluzione migliore. Ma io devo dire che in questo momento credo che comunque le Furie Rosse ferrariste siano messe meglio della nazionale di Ventura, che ieri ha avuto veramente, anche quella è stata imbarazzante sicuramente. Perché? Perché adesso arriveranno piste che sono più favorevoli alla Ferrari e cambiano molto, le piste cambiano molto poi i valori in campo. Singapore è sicuramente una pista pro Ferrari. Qui abbiamo salvato, la Ferrari ha salvato il risultato con il podio, perché alla fine dei conti il podio poteva anche essere messo in pericolo se la Red Bull non fosse partita penalizzata, perché oggi quello che ha sorpreso era che la Red Bull aveva un passo sul giro migliore di quello della Ferrari. Ricciardo, se fosse partito dove si era qualificato, sarebbe arrivato davanti, così anche Verstappen, perché non avrebbe dovuto forzare nei primi giri, non avrebbe combinato il suo solito patatrack. Quindi alla fine è andata male, ma poteva andare malissimo se le due Red Bull si fossero partite senza penalizzazione. Questo dal punto di vista della classifica del campionato. Dal punto di vista del morale, questa è una botta brutta dopo che ci si era illusi a Spa, però si era riusciti a ripartire benissimo dopo Silverstone, la Ferrari. Ieri Marchionne era l'uomo più felice del mondo. Sì, c'è una differenza. Posso citartelo, credo, così lo ricordiamo anche agli amici a casa. Marchionne ieri aveva detto: ormai siamo alla pari delle Mercedes. Poi aveva parlato di progettualità, di piloti più forti del mondo. Oggi è tornato a usare il bastone, non la carota. Mi ha molto sorpreso, almeno nei toni. Credo sia la prima volta, direttore, in stagione che Marchionne usa questo tono. Sì, è un tono che è fatto da qualche anno. 3-4 anni fa, quando insomma, nella domenica di Monza praticamente cacciò Montezemolo, però è sorprendente come un presidente che dovrebbe in questo senso essere equilibrato passa in poco più di 24 ore da essere soddisfatto, dalle montagne a burrone alla fine, perché è andata male la gara di Monza. Ha ragione Carlo, non dobbiamo avere questo complesso di inferiorità nei confronti della Mercedes. La Mercedes è sicuramente più avanti su certe piste, superiore, però la Ferrari quest'anno ha dimostrato di poter essere alla pari in tante occasioni, e non è che oggi è finito il campionato. Oggi è andato avanti per la prima volta Vettel, è per la prima volta Hamilton, è vero, dopo 11 gare di fuga di Vettel, però stanno arrivando delle piste dove si può cercare di reinvertire un po' la tendenza. Ci eravamo illusi forse dopo Spa, oggi ci siamo risvegliati, però non so. Guarda direttore, fino a un certo punto, perché comunque la Ferrari è quella che era il giorno prima, quindi disfattismo oggi perché si è arrivato terzo, enorme entusiasmo ieri era il più bravo del mondo, ripeto, sei più sfigato, secondo me non è esattamente così. E secondo me quelle parole di Marchionne non sono neanche state così opportune. Sì, mi chiedo quanto possano aiutare il team e chi sta lavorando comunque ventre a terra da un anno, ma lo diceva Marchionne ieri, non ce lo inventiamo noi. No, ma anche perché sono dato atto che la Ferrari in un anno ha rivoluzionato. Noi stamattina avevamo un'intervista a Jean Todt che lui stesso mi diceva: sono rimasto sorpreso, io a ottobre dell'anno scorso predicavo pazienza per i tifosi della Ferrari, sono sorpreso di arrivare qui alla vigilia di Monza, aver visto una Ferrari che in questo campionato ha già vinto 4 gare ed essere competitiva praticamente su tutte le piste tranne che a Silverstone, poi si è aggiunta Monza, però sicuramente il passo avanti che è stato fatto è stato notevolissimo e ha sorpreso tutti, perché a Monza oggi le cose sono andate male, non è che dobbiamo dire pensare di essere imbarazzanti. Dobbiamo dire semplicemente che in questo Gran Premio la Mercedes è stata superiore. Dopo Hungaroring, cosa avrebbe dovuto dire? Quindi, sì, anche se adesso diamo qualche tendenza numerica. Adesso diamo qualche tendenza numerica e cerchiamo di capire anche che cosa può accadere nelle ultime 7 gare a partire da quella di Singapore tra 2 settimane. Leggo qualche messaggio: 349-238-6666. C'è una domanda, chiedo una risposta secca a Umberto Zappelloni. La Mercedes può essere stata avvantaggiata dal discorso dell'olio motore? Ma la stessa Ferrari ha un po' allontanato il problema nelle conferenze di venerdì, quindi non credo che sia lì il problema. Probabilmente la Mercedes ci ha dato un po' di più di motore rispetto a quanto era capitato a Spa per mettersi tranquilla, ma non credo che sia quella la differenza. E poi un altro messaggio: se la Ferrari con Vettel dovesse vincere il mondiale sarà soltanto per errori di Hamilton, non credo nemmeno questo, però c'è il traffico. 800 24 00 24, chiedo un minuto di pazienza a Umberto Zappelloni. Poi diamo un'occhiata a cosa capita nelle prossime e ultime 7 gare, ma diamo anche un'occhiata a che cosa è successo nelle ultime 7. Tutti convocati. convocati. Reu Turrini lo sentiamo domani, quindi gli gireremo questo messaggio che arriva da Antonio, che dice, criptico, potete dire a Reu Turrini che 3 è minore di 11 punti persi a Baku, quindi prendi nota, Carlo, domani Reu Turrini dovrà risolverci questo messaggio, che io francamente faccio fatica a capire. Un altro messaggio: Marchionne ha detto che il re è nudo, il divario è stato imbarazzante e ringraziamo che le Red Bull erano penalizzate. Allora, nelle prossime 7 gare, Singapore, Malesia, Giappone, Stati Uniti, Messico, Brasile, Abu Dhabi, qui si decide il mondiale. Nelle ultime 7 che sono state corse dopo Monte Carlo, la Mercedes ne ha vinte 5, la Ferrari 1, la Red Bull 1, e di fatto c'è stato un dominio praticamente trasversale. Umberto Zappelloni, perché dovremmo ritenere che le prossime 7 saranno diverse, e comunque su uno stint di 7 parliamo di gare diverse tra di loro? Sono gare molto diverse tra di loro, ma ci sono circuiti che hanno caratteristiche favorevoli alla Ferrari. Singapore e Austin su tutte, ma probabilmente anche Abu Dhabi alla fine del campionato potrebbe essere favorevole alla Ferrari. Sono piste perlomeno molto diverse, non ci sono più piste simili a Belgio e Italia, cioè piste unicamente e prevalentemente di motore favorevoli a una Mercedes con il suo traio più lungo e con la sua forza di motori, quindi per questo dovremmo avere un po' di ottimismo. E poi, perché se stiamo a sentire il Marchionne di ieri, questa Ferrari avrebbe pronte delle evoluzioni per ogni gara. Ma sì, si sta battagliando, dai direttore, è una lotta che sarà, ci auguriamo tutti, fino all'ultima pista, che tu dici favorevole alla Ferrari, e magari si giocherà tutto sull'ultima pista. Oggi è inutile fare del disfattismo, quindi... No, ma io penso che da pazzi illudersi che a Monza la Ferrari potesse uscire distanziando ancora la Mercedes. La sconfitta qui era abbastanza prevedibile. Nei piani, certo, si poteva, con una qualifica migliore il secondo posto si poteva pensare di prendere, quindi stasera devi trovarci quei due piloti con Hamilton e Vettel alla pari in testa alla classifica, e con Hamilton davanti solo perché ha vinto più gare. La qualifica ha compromesso tutto, poi in gara è stato sorprendente l'aumentare del divario, soprattutto anche dopo il cambio gomme. Cioè, ci ha messo un po' Vettel a liberarsi di quelli che gli partivano davanti, però poi non è mai più riuscito a fare dei giri neppure vicini a quelli dei due che gli stavano davanti, che invece giravano in fotocopia. Quindi è stato imbarazzante questo, perché la Mercedes è andata via regolarmente con i primi due, che facevano i tempi quasi sempre identici, 1-2, 1-2, e Vettel che restava quasi sempre a mezzo secondo. Cosa sia successo è difficile da capire, non l'hanno capito bene neanche loro, ma io, siccome la capacità di reazione della Ferrari l'abbiamo già vista dopo Silverstone, non sono qui a rompermi la testa di il mondiale finito. Ma manca sette gare, rimane comunque il tempo per risollevarsi. prima di salutare Umberto Zappelloni, voglio chiedere il suo voto: con Ventura o contro Ventura? Perché oggi è il dibattito nazionale, dopo aver visto ieri la nazionale presa a schiaffi al Bernabeu. Ventura ha le sue colpe sicuramente, perché 14 mesi fa la Spagna l'avevamo battuta, non è che la Spagna da allora a oggi ha messo dentro giocatori tipo Isco che non c'era allora, e allora noi avevamo Conte in panchina e quindi quello aveva dato un valore aggiunto alla nostra nazionale, che aveva meno talenti forse di questa. Siamo andati in Spagna forse illudendoci di avere noi dei giocatori all'altezza, potessero giocare ad armi pari, invece non possiamo ancora giocarcela apertamente, dovevamo andare là con un po' più di rispetto e forse un po' più di cattiveria, però questo credo che sia stato messo alla luce anche un po' un problema del nostro calcio, di un certo tipo di calciatori quando a livello internazionale mancano forse di esperienza, mancano di abitudine a un certo tipo di partite. Isco ha fatto gol in una finale di Champions, Belotti partite di questo tipo le gioca solo con la nazionale, ad esempio. E poi io dico, è inquietante anche il fatto che la sera prima anche l'Under 21 aveva perso il 3-0, cioè quindi abbiamo quasi ipotecato anche il futuro, e questo non è bello. Vediamo le maglie rosse, ci viene paura. Non è nemmeno sorprendente visto come sta andando in questi ultimi anni. Grazie direttore. Grazie a voi. Grazie Umberto Zappelloni. Io faccio veloce rassegna di quello che ci state scrivendo, lo ricordo, 800 24 00 24, oggi la facciamo praticamente tutta la puntata sul dopo Spagna Italia con o senza avventura, voglio sapere che cosa ne pensate. Vi racconteremo anche Italia-Lituania di basket. Intanto è appena finita Slovenia-Grecia 78-72 e dalle 17.30 ricorderemo, racconteremo la terza partita dell'Europeo dell'Italia. Ci state scrivendo in tanti, anche su Facebook e Twitter. Maurizio, siamo scarsi e basta. Antonio, io sono contro Ventura. Poi Joe, Ventura non è adeguato al suo ruolo, la squadra lo ha capito tragicamente, come se fosse stato scaricato ieri al Bernabeu dalla squadra. Poi Luigi, cosa c'entra Ventura? Loro riescono sempre a tirare fuori fenomeni dai vivai, noi da due generazioni al massimo tiriamo fuori Darmian e Belotti. Poi ancora Davide, basta andare all'avventura, deve andare a casa. Patrizia, Ventura inadeguato per la nazionale. Insomma, questo è il clima oggi, il giorno dopo Spagna-Italia, e allora andiamo in Spagna e apriamo questa pagina. Mi sembra che abbiamo fatto più facile di quello che sembra vincere oggi. Non è facile vincere contro l'Italia e meno farlo di questo modo. Abbiamo fatto una grandissima partita col Bernabeu, con la gente che è stata con noi. Abbiamo fatto una grandissima partita. Carissimo Filippo Maria Ricci, ciao. Buon pomeriggio. Hola hermano, come stai? Che passa? Male. Male. Male, male. E perché? Male. Perché? No. Dai, non si può, non va bene così. Ah, allora, è un po' deprimente, no? Il giorno dopo da italiano in Spagna, dove non hanno il problema nostro, evidentemente. Ma in Spagna possono anche avere i loro problemi. Il discorso è che semplicemente ieri sera, come oggi la Ferrari non poteva vincere a Monza, ieri sera Ventura ha sbagliato la formazione. Quindi non si tratta di un processo all'intenzione, all'allenatore, alla persona. Ha sbagliato la formazione, era ciccata completamente. Così il centrocampo alla Spagna è normale che ti aprano in due. Quindi... Però, Carlo. Quindi no. Adesso perché ha complesso di inferiorità nei confronti della Spagna? Secondo me non c'è stato complesso né di superiorità né di inferiorità. No. Allora, semplicemente formazione sbagliata. Due cose. Allora, uno, però, perché si sbaglia la formazione in questo modo contro una squadra che si sa che gioca così? Perché la Spagna gioca sempre così. Falso 9 o 9 vero è uguale. Quello che conta è la tela che c'è dietro questo gioco, no? Il possesso palla, l'hanno dichiarato tutte le interviste, tutte le dichiarazioni, tutto uguale. Noi vogliamo il pallone, vogliamo giocare, e tutti presenti così. A me viene il dubbio, sinceramente, che il nostro commissario tecnico non conosca così bene il suo avversario, perché se lo conosci così non vai in campo così. A me questo è il grande problema. Scusami, lo conosciamo, poi... vi chiedo una cosa, tutte e due, a Giovanni e a Filippo, ma lo conosciamo noi, non lo conosce il commissario tecnico? È inutile che metti 12 punte quando la partita la giochi al centrocampo? No, io trovo tutto molto esagerato in realtà, il processo che si sta prendendo. Per carità, Ventura ha sbagliato formazione, però ricordiamoci che venerdì, e Filippo Maria Ricci lo sa, tutti noi, prendetevi i giornali di ieri, giorno della partita, eravamo qui a lodare l'idea di andare finalmente a viso aperto a giocare in casa della Spagna, ricordandoci tra l'altro che avevamo un solo risultato a disposizione. Quindi poi alla fine noi dov'è che siamo? Andiamo al playoff dove dovevamo stare. Bravo. A viso aperto è diverso. Viso aperto è diverso. Non è che mettendo gli attaccanti giochi a viso aperto, semplicemente ti consegna il suicidio. Esatto, cioè viso aperto è un'altra storia. Attenzione, io dico una cosa. La sconfitta della Spagna contro l'Italia, dell'Italia di Conte, è di 14 mesi fa, non di 6 anni fa. E a Torino, 10 mesi fa, abbiamo sofferto per 75 minuti, però poi alla fine potevamo anche vincere. Com'è possibile che in 10 mesi ci sia questo tracollo? A me è questo forse paura. È anche venuta fuori la Spagna che abbiamo battuto all'Europeo. Appunto. Era alla fine di un ciclo. Esatto. Quella di ottobre era all'inizio di un altro. E la Spagna è più forte di noi, ha più talento di noi, ha più campioni di noi. Siamo partiti uguali, eravamo allo stesso punto, abbiamo cambiato allenatore, così. Noi adesso siamo così con questo 3-0 contro, tra l'altro doppio 3-0 perché c'è anche quello dell'Under 21, visto che è cambiato il ciclo, siamo partiti così. Comunque, dico, vabbè, il talento, d'accordo, tutto quello che vuoi, però noi, allora, le poche armi che abbiamo, almeno cerchiamo di usarle. Io dico questo, poi dopo tutto ci può stare, però voglio dire, a me ieri mi ha fatto impressione, insomma, non vuol dire proprio... Perché non cambia a metà tempo? Cioè, non averci capito nulla. A me non è piaciuta la dichiarazione di Ventura. Non mi è piaciuta la dichiarazione di Ventura. Noi siamo umani, loro meno. Adesso non c'è Maradona, Pelé, Platini, Van Basten e Zico che giocano nella Spagna. Sono buoni giocatori, abituati a giocare queste partite, che sanno come fare e sanno come giocare. Non è che dobbiamo panchinari andare del Real Madrid, Carlo. Ma panchinari, sì, perché Asensio, Morata e Isco fino a marzo-aprile erano panchinari, poi Isco solo perché si è rotto Bale ha cominciato a giocare. Però questi non sono, appunto, non stiamo parlando di, cioè non c'erano Neymar e Messi dall'altra parte, vero? Diciamo, vabbè, allora, giocatori affermatissimi, no. Cioè, Asensio c'ha 4 partite in nazionale, quella di ieri sera era la quarta. Morata è dovuto andare al Chelsea per andare a giocare. Allora, comunque, lasciamo anche stare i singoli, dico, non c'è umani o non umani. È che, voglio dire, proprio è stata completamente sbagliata la partita e poi non è stata neanche corretta. Beh, questo che mi fa un po'... E poi dopo le dichiarazioni che mi viene a dire che noi saremmo la sorpresa del mondiale. Sì, questo evidentemente è gettare il cuore oltre l'ostacolo in maniera magari, esagerata. Però carissimo Filippo, a me ha molto colpito questa mattina leggere uno dei commentatori, credo più noto e seguito in Spagna, Alfredo Relano su AS. Relano, il direttore di AS. Ecco, quindi insomma stiamo parlando comunque di un giornalista, di una penna importante, che ha scritto testuali: la verità è che è stato Isco a distruggere l'Italia, non eravamo poi così superiori nel gioco, come diceva il 2-0 all'intervallo. Le partite equilibrate le risolvono i colpi di genio, e chi li ha avuti questa sera è stato Isco. Cioè, alla fine il soccorso avventura arriva dalla Spagna. Sì, è una lettura che io non condivido. Io neanche. Però se voglio dire, cioè, se la Spagna faceva quello che voleva, accelerava, rallentava, la palla era loro. Voglio dire, io, la lettura per me, il direttore ieri non lo condivido, insomma, non la sua lettura. Però detto questo, io dico, non eravamo così lontani, come mai ci ritroviamo improvvisamente così a questa distanza? E così manda anche al massacro, per esempio, il povero Insigne, che è uno dei giocatori migliori che abbiamo. Cioè, ieri sera l'hai esposto all'udibrio pubblico perché vuoi dire, l'ha sistemato in una zona che non è la sua. Sì, giocava completamente fuori posizione. Giorgio De Luca, autore di questa puntata, insieme a Valeria Bernardi, ha prontamente recuperato un Ventura a proposito della differenza tra noi e loro. Basta pensare che un qualsiasi calciatore che giocava nella Spagna al minimo ha 3 finali Champions League sulle spalle. Noi pochi. Quindi è normale che ci possa essere differenza. Questa non è una critica alla mia squadra, è semplicemente una constatazione che in questo momento è così. Quindi dobbiamo lavorare per far sì che piano piano diminuiamo il gap. E come lo diminuisci il gap? Avendo giocatori che hanno fatto 3 finali Champions League, o attraverso il lavoro, attraverso le conoscenze, attraverso un aspetto tattico, attraverso eccetera eccetera eccetera. Allora, questo Ventura ieri, leggo qualche messaggio, ne stanno arrivando tanti e io vi invito fino alle 18.45, siamo qui, anzi dopo le 17.30, arriva Pardo, arriva Demetrio Albertini, ma arrivate anche voi, 800 24 00 24. Allora, qualche messaggio: l'Italia non è così scarsa come evidenziato ieri sera, la colpa è di Ventura, questo è Ulisse. Poi ancora Ventura ha commesso lo stesso identico errore fatto da Allegri contro la Lazio in Supercoppa, e cioè consegnare il centrocampo. Poi è un allenatore non adatto ai grandi palcoscenici, oppure Ventura non ha colpe sul modulo, l'unico risultato utile era vincere, quindi l'unico modo per vincere era quello che aveva scelto lui. Insomma, a me non è piaciuto però quello che abbiamo sentito di Ventura, Filippo, se devo essere sincero. Allora, mi pare un po' arrampicarsi sugli specchi. Ma 3 finali di Champions, almeno 3 finali di Champions, ma di che cosa stiamo parlando? Vediamo, stavo andando un po' a se ci arrivano ce le può avere Iniesta, Piqué, Busquets. Poi chi altro? Isco no, perché Isco ne ha due, insomma. Sì, 3, Sergio, vai. Ramos. Sì, Isco, Sergio Ramos. Ramos, sì, comunque quindi sono 5. Diciamo che no, può tenere il suo discorso, sì. Però allora io lo rovescio a un altro. Secondo me bisogna fare anche un riesame, o comunque analizzare meglio quello che è il campionato italiano, perché alla fine questo poi, perché poi ci si nasconde sempre, dice il fatto che loro sono umani o più o meno umani, le finali di Champions. Il problema vero, secondo me, il secondo problema dopo la formazione sbagliata, è che questo campionato, come diceva Don Fabio, non è allenante. È un campionato minore in questo momento. Le cose speriamo che cambino, ci sono tutti i sintomi perché possono cambiare, però in questo momento è un campionato, diciamo, minore rispetto ad altri. E a me quelli che mi fa tanto ridere, che no, anche tra i nostri ascoltatori, la Liga è un campionato di due squadre, giocano solo in due, campionato. Intanto qua però tutti giocano a calcio, e giocare a calcio fa sempre bene, perché poi quando c'è da far girare il pallone, che tu giochi nel Deportivo, nel Villarreal o nel Real Madrid, comunque sei più pronta, più resta preparato in testa. Allora, adesso ci fermiamo perché abbiamo il meteo. Io ringrazio già Filippo Maria Ricci. Ciao Phil, a presto. Io vi dico già che non sono d'accordo, nel senso che avete ragione su tutto, che ha sbagliato la formazione, ma ad esempio in una parte, poi magari la sentiremo, in cui Ventura dice: è inutile che vi fissate su sta partita, noi abbiamo un progetto, dipende cosa vogliamo diventare, proprio perché noi vogliamo diventare quella cosa lì. Secondo me la partita di ieri del Bernabeu non deve diventare l'occasione per un massacro, per un processo in pubblica piazza al commissario tecnico. Però siamo qui, noi combattiamo. Grazie Filippo, ciao. Ciao Filippo. Poi speriamo che tu abbia ragione, sono d'accordo con te, spero che tu abbia ragione. Ciao. Va bene, allora 800 24 00 24, è iniziata da 19 secondi Italia-Lituania, che seguiremo assolutamente in diretta fino alle 18.45, e speriamo che almeno questa nazionale ci dia soddisfazioni. Torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Parte Isco, morbido, il vantaggio della Spagna con un gran gol di Isco al 13° minuto. La speranza era quella di, al di là del risultato, di fare un altro tipo di partita e di essere in gara almeno fino alla fine. Però insomma, questa sera credo che ci siano molti meriti anche dei nostri avversari, che hanno fatto insomma una gara di primo livello per qualità tecnica, per spessore, per esperienza, per tutto. Verso Isco, può tentare la conclusione, si allarga sul sinistro Isco, e sono due, doppietta di Isco. Se una partita cancella tutto quello che sono i programmi, i pensieri, il lavoro, beh, allora possiamo fermarci qui e non rispondo più a domande. Tocco verso Sergio Ramos, il cross di Sergio Ramos per Mora. Se noi andiamo ai mondiali senza aver fatto esperienza, crescita, conoscenza, andiamo ai mondiali ma ritorniamo a casa, mentre invece io dico che dobbiamo lavorare per A, andarci, B, essere la sorpresa. Questo è il motivo per cui è stata fatta questa scelta. Allora, intanto è iniziata bene la partita dell'Italia contro la Lituania, terza giornata dell'Europeo, 16-9 per gli azzurri con 5 punti di Bellinelli e Melli. Ve la raccontiamo in diretta, 800 24 00 24. Demetrio Albertini, ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao professore. Allora, sei con Ventura o contro Ventura in questo processone popolare che si è aperto dopo gli schiaffi di ieri al Bernabeu? Questa domanda uno la deve fare prima della partita, non dopo, è troppo facile dopo, no? Allora si cavalca quello che uno vorrebbe sentirsi dire, guardare solo il risultato. Personalmente, se scelto una filosofia o comunque un modulo di gioco, visto che alla fine si parla sempre di questo, e bisogna passare anche attraverso qualche sconfitta. Cioè, quello di ieri è la disamina di Ventura e di Gigi Buffon, è quella giusta. Loro sono stati superiori, sia fisicamente, sia tecnicamente. Sì, ieri. Non mi sembra però, Demetrio, il caso di fare dei macro discorsi, dei macro processi. È stata una partita sbagliata dall'inizio alla fine. Malamente. Quello che vuoi. Giudichiamo la prestazione, giudichiamo il risultato e saranno le critiche, perché questo è il nostro mondo ed è giusto, perché se siamo a parlare per quello, ma è lì il punto, basta, deve finire, bisogna proseguire, non è una questione di mettere in dubbio né il mister, né la filosofia, né la formazione, perché alla fine lui è lì per ricevere le critiche per la prestazione, ma con l'intento di costruire qualcosa. Affinché possa essere qualcosa di serio fra un anno e mezzo. Mi piacciono molto queste parole di Demetrio Albertini, perché io l'ho detto anche prima, se noi torniamo indietro di 24 ore troveremo tanti che nell'immediata vigilia, ma noi per primi, così rispondo a qualche messaggio che è arrivato. Beh, io no, mi dissocio. Perché venerdì eravamo in onda e abbiamo detto non si può tenere fuori Insigne, c'è bisogno di dare spazio ai nostri giocatori più in forma e più talentuosi, e tanti erano d'accordo con questo 4-2-4, quindi non si può, criticare una singola partita, ma non si può tornare indietro. Secondo te si sta un po' esagerando con Ventura? Cioè è bastata una brutta serata, oggettivamente brutta, per tornare ai paragoni con Conte, a dire che non è un allenatore che ha il pedigree giusto per stare sulla panchina di una nazionale come l'Italia, Demetrio? Secondo me sono sbagliate su questo, perché queste critiche, perché io ci sono stato sia da giocatore che da dirigente, no? Nella nazionale, e settembre è un mese incredibile, proprio io ho visto delle partite che qualche volta si è riuscito anche a aggiustare, ricordo una volta a Cipro con Flippi dove abbiamo vinto ed è veramente, era stata una partita imbarazzante. Però Demetrio, no? È settembre anche per loro, Sì, però è tutto vero, però lo dico sia da calciatore che da dirigente. Il nostro pensiero, il nostro modo di essere da calcistico è diverso da quello della Spagna. Quello della Spagna, oggi, incontrare la Spagna a settembre, che ha il palleggio facile, e lo vediamo anche nelle squadre singole, quando abbiamo fatto i preliminari di Champions, quando abbiamo fatto i preliminari di Europa League, incontriamo le spagnole, soffriamo tremendamente a settembre o nei preliminari, perché noi non stiamo bene, se noi rincorriamo gli avversari, perché abbiamo un po' meno di talento storicamente, no? Confronto alla Spagna, ma se li rincorriamo non recuperiamo mai la palla e non riusciamo mai a fare il nostro gioco. E questo è il problema. Settembre per noi, il calcio italiano, non è... quante volte abbiamo perso i preliminari negli ultimi anni? Sì, tantissime volte. È un mese maledetto per come ci arriviamo e anche per il modo in cui solitamente giochiamo. Ti voglio invece chiedere se secondo te Verratti è una delle spiegazioni della sconfitta. Lo dico perché oggi sui giornali è unanimemente definito il peggiore, ragazzi, in campo. Ma questi a pagare sono dal 4 al 4 e mezzo. Ma li ha messi lì e sono stati fucilati. Ma sì, semplicemente perché non era possibile. Tanti ricordano che Verratti ha naufragato anche al Camp Nou nel famoso Barcellona Paris Saint Germain. Ma Demetrio, tu che sei stato un califfo, quante partite hai sbagliato in inferiorità numerica così clamorosa a centrocampo? Facile oggi sparare su Verratti su De Rossi. È difficile, secondo me non va vivisezionata la partita, va detto quello che è, quindi né nei singoli, né nei reparti e né nella squadra. Io dico che loro sono stati già prima, solo guardando la formazione, e dopo, sinceramente, dimostrandolo in campo, no? Superiori, cioè sono almeno 3-4 passi avanti a noi come situazione. Hanno dei cambi generazionali già programmati loro, sinceramente. Noi tutte le volte quando c'è questo cambio o questa ricostruzione un po' di difficoltà ce l'abbiamo. Quindi sinceramente non è Verratti, perché poi è tutto opinabile nel calcio. Allora, se sei in inferiorità numerica, allora quindi sei in inferiorità numerica. Dico Verratti perché è quello da cui ti aspetti qualcosa, sì, sei un giocatore di un certo livello. Dall'altra parte cerchi, cioè io se fossi stato in campo e avessi avuto le critiche oggi come le ha avute Marco, io sinceramente sarei stato felice, perché vuol dire che si aspetta qualcosa di più da me. E quindi vuol dire che mi reputano un giocatore che devo giocare molto meglio. Avresti preso il lato buono della critica. Questo sicuramente. Dall'altra parte poi dopo ci sono tutte le scusanti, perché quando tu sei in due a giocare con l'uomo sempre dietro le spalle e non sai se girarti, fare un passo avanti o fare un passo indietro, cioè questi sembravano il flip, ci sono stati momenti che sembrava un flipper a 200 all'ora, un po' li conosco perché il Torello col Barcellona, con l'Atletico Madrid, quindi non solo col Barcellona, li facevo, e quando andavi in mezzo tante volte non la prendevi mai, perché loro è una filosofia. Sì, e l'hanno fatta del resto. Abbiamo il traffico, però aspettiamo un momento, voglio sentire Marco da Bergamo. Marco, volevo chiedere, ciao, a chi è buon pomeriggio in studio, ciao anche ad Albertini. Vai. C'è una differenza tra la tipologia di gioco che abbiamo visto un anno fa e la tipologia di gioco che abbiamo visto ieri sera? Cioè intendi l'europeo, il termine di paragone, Italia-Spagna-l'europeo? Sì, esatto. C'è una con Ventura abbiamo preso una strada diversa da quella che era quella di Conte. Adesso bisogna dirsi, i risultati arriveranno su una strada diversa oppure la strada è stata presa in modo un po' considerato rispetto agli obiettivi. Oppure siamo per fuori strada. Così, sì, no, ma è chiaro il concetto. L'ultima sì. cosa, in una battuta così ridiamo tutti. Un capitano di Ventura ci ha dato un'armata a Brancaleone. Vabbè, io non credo sia così, Demetrio. Sinceramente, noi l'europeo abbiamo sempre detto, l'abbiamo valutato per quello che è stato. È stato sicuramente una sorpresa positiva, però con delle difficoltà. Siamo andati, secondo me Antonio Conte ha fatto, non dico un miracolo, è riuscito a mettere e a convincere i giocatori a giocare e a sentirsi più forti di quello che poi alla fine ce lo sono, no? Però hanno fatto un europeo straordinario, ma con delle difficoltà. Abbiamo preso il lato positivo, quindi non è che siamo arrivati in finale o meno. Io credo che è stato un europeo straordinario. Credo che nel calcio non c'è una ricetta, perché sennò bisognerebbe fare tutti come Conte o come tutti come Sacchi o tutti come Capello, come Mourinho o Guardiola. Cambiano le generazioni, cambiano i giocatori e bisogna vedere che tipo di giocatori uno ha. Oggi abbiamo dei buoni giovani che possono diventare importanti. Certo, hai un minuto ancora, Demetrio? Abbiamo il traffico. Sì, intanto sì. È finito il primo quarto, Italia-Lituania 23-23, abbiamo preso un tiro da tre punti sulla sirena dopo aver condotto tutto il primo quarto e quindi si riparte dalla parità. C'è anche Emilio da Bologna a cui chiedo di pazientare un minuto, ripartiamo da lui. Tutti convocati. Tutti convocati. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presento. Tutti convocati. Allora, vi ricordo ancora una volta il numero 800240024. Vi faccio sentire anche un altro audio di Ventura dopo Spagna-Italia di ieri sera. Ieri? Qui, davanti a 50 giornalisti, sono stato, dice, cosa risponde lei alle critiche feroci che le hanno fatte per non aver fatto giocare Insigne? Ieri. Quindi capisco che non c'è equilibrio e quindi se non c'è equilibrio, qualsiasi cosa viene detta, ne prendiamo atto, ma conta il lavoro, tutto il resto non conta. Ricordo che la vittoria ha mille padri, la sconfitta è sempre orfana. Allora, vi do lo score del primo quarto orfana d'Italia-Lituania, 23-23. Per l'Italia ci sono 8 punti di Melli, 5 di Belinelli e Datome, 3 punti di Hackett che sta facendo una discreta partita, 2 punti di Aradori. È però una bella Italia. Saluto Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao ragazzi, ciao a tutti. C'è Demetrio Albertini e c'è Emilio da Bologna che ci sta aspettando. Vai Emilio. Allora, salve. Ciao. Devo dire semplicemente questo, sono d'accordo, adesso non mi ricordo chi di voi l'ha detto, sul fatto che Ventura l'errore l'ha fatto mettendo quattro attaccanti in pratica, lasciando sguarniti il centrocampo dove Verratti non ha brillato, lì forse era meglio fare un 4-3-3. Vero è che se noi siamo messi benino come attaccanti e come difensori nei giovani, per il centrocampo non vedo dei grandi. Oh, bravo Emilio. Ci hai bruciato. Dei gran fenomeni. E allora Verratti, ne abbiamo due, gioca anche solo quelli. No, ecco, Verratti, volevo dire una cosa. Tutte le volte che ha giocato in nazionale, ditemi una partita che ha fatto bene. Non ha mai fatto bene. Allora, guarda Emilio. Guarda Emilio, Verratti lo facciamo difendere da Demetrio Albertini. Demetrio. Difesa. Adesso sono giudicante, no? Una volta ero giudicato, quindi il passaggio è diverso. Non è vero, qualche partita buona l'ha fatta, è normale che quando perdi da Verratti, che è un giocatore internazionale, è stato un giocatore di mercato quest'anno e tutto, ci si aspetta tutti che faccia la differenza. Poi va messo anche nelle condizioni poterlo fare. Mi aspetto molto di più anch'io da Marco, sinceramente, proprio come personalità, come passo, come prendere in mano la squadra, perché è vero che hai De Rossi che è un veterano vicino, però hai anche altri giovani che li devi portare con te, no? E quindi credo che tutti ci aspettiamo qualcosa di più da Marco. Pier, allargo a te e così rispondiamo anche all'amico, che secondo me ha fatto un'osservazione intelligente, cioè questo gruppo che sta nascendo e che è un progetto, io credo, non per questo mondiale ma per l'europeo successivo, è forte sugli esterni, ha potenzialità davanti, ha sempre la solita difesa, e perché Ventura dovrebbe giocare provando a valorizzare valori di reparti che forse in questo momento nei quali facciamo fatica? No, ma allora, innanzitutto parto da quello che abbiamo sentito detto da Ventura, anche con un po' di amarezza, comprensibile, perché che non ci sia equilibrio è evidente ed è la vita, e il calcio da questo punto di vista è proprio il regno del non equilibrio, quindi si passa da un giorno all'altro da essere un eroe a essere un coglione, scusate il francesismo, quindi su questo non c'è dubbio. La scelta che ha fatto è stata sicuramente una scelta sorprendente, una scelta coraggiosa, e poi il coraggio col senno di poi si è rivelato funzione, nel senso che poi noi quel tipo di modulo contro la Spagna non ce lo possiamo permettere, forse ce lo possiamo permettere contro Israele in casa, ma contro la Spagna non ce lo possiamo permettere, al Bernabeu nemmeno se dobbiamo andare a vincere, per cui la sostanza è stata questa. Poi la partita ha vissuto anche di episodi, di situazioni che ci hanno sicuramente girato contro, però il risultato è clamorosamente, sì, però negativo. È giusto, no, puntare su un calcio diverso, perché questa è la generazione che sta crescendo. Posso dire, allora, io non ci capisco niente, aspetta un attimo Pier, non ci capisco un attimo niente, vorrei girarla ad Albertini. Per vincere a pallone bisogna mettere 100.000 attaccanti? È questa, no, cioè devi vincere, quindi no. Vai con gli attaccanti? Ecco. Assolutamente no, nelle partitelle vincono sempre i difensori, quando fai attaccanti contro difensori, quindi sinceramente no. Il discorso è un altro, credo che noi stiamo parlando di numeri, quanti attaccanti, perché poi li vediamo nelle loro formazioni o comunque sono più propensi ad attaccare che difendere. Io dico un'altra cosa invece, che conta molto di più anche l'interpretazione del calciatore, perché quando tu metti la Juventus gioca con il centravanti croato che ha sempre fatto gioca Mandzukic. Sulla fascia, Mandzukic gioca sempre sulla fascia eppure recupera i palloni a destra e sinistra. Certo. Tu hai, quindi è un'interpretazione che tu metti tre attaccanti che però sanno anche difendere, o almeno vogliono difendere perché sono parte, no, di un gruppo. Quindi non è questione di fermarsi esclusivamente sui numeri. È questione di capire quanto, e quello deve avere il polso l'allenatore durante l'allenamento, quanto si è pronti e quanto si vuole che i calciatori vogliano fare questo tipo di fatica per valorizzare dopo diciamo la fase offensiva. Ieri poco, forse anche per condizioni, chi lo sa. E poi ovviamente anche tante prestazioni individuali sicuramente non all'altezza, la Buffon, Insigne sicuramente. Sì, poi parliamo dei singoli dopo le 18. Non è per mettere la croce. Perché c'è anche la clamorosa pagella della Gazzetta che ha scritto di Buffon, insomma parole abbastanza dure, cioè serataccia o declino. Dopo ne parliamo, Pier. Allora, fatemi salutare Demetrio Albertini, che c'è il GR. Grazie Demetrio, è stato come al solito un piacere. Allora, aggiornamento Lituania-Italia 30-25, non abbiamo iniziato bene questo secondo periodo, 6 minuti e 34 alla fine della prima metà della partita, ricordiamo che avevamo comandato per tutto il primo quarto, adesso invece siamo un po' in difficoltà. 800-24-00-24, dopo il GR delle 15 ritorniamo, ci sono gli ascoltatori, delle 18 ritorniamo, ci sono gli ascoltatori, poi arriva Ciccio Graziani e intanto continuiamo a raccontarvi Italia-Lituania. Tutti convocati. Sono Nicoletta Carbone, diventerò la vostra salutare ossessione quotidiana, 7 giorni su 7. Dal lunedì al venerdì una rassegna puntuale delle notizie che arrivano dalla ricerca, commentata dagli esperti più autorevoli. E per chi vuole andare oltre la notizia, sul nostro sito ogni giorno approfondimenti, interviste, le risposte degli esperti, video e tutorial. Ma ci sarò anche nel weekend. Al sabato vi racconterò tutto quello che dovete fare e sapere per stare bene e per sentirvi meglio, solo quello che serve. E la domenica caccia alle bufale per riportare la verità nel piatto. La salute, il benessere e il cibo sano con Nicoletta Carbone, da lunedì 4 settembre alle 12 su Radio 24. Cos'è il certificato di vaccinazione? Entro quando portarlo a scuola? Cosa succede se mio figlio non è vaccinato? Domande e polemiche per il decreto della discordia alla prova d'autunno. Conto alla rovescia per l'inizio delle scuole e Radio 24 vi spiega tutto quel che c'è da sapere sui vaccini in classe. Da lunedì 4 settembre per tutta la settimana in viaggio in GR24 delle 7. Il segnale orario vi è offerto da... Cosa ti preparo? La tavola. Prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin nel banco freezer. Tutti convocati. Allora, siamo in onda fino alle 18.45, quindi vi aspetto 800 24 00 24, aggiornamento su Italia-Lituania, 12 secondi alla fine del secondo periodo, 41 Lituania, 32 Italia, secondo periodo difficile per gli azzurri che stanno tirando malissimo da due punti, con meno del 30%, 5 su 17, ma soprattutto stanno prendendo una marea di rimbalzi meno rispetto alla Lituania, 24 a 11. 800 24 00 24, abbiamo recuperato anche Pierluigi Pardo. Pier, eccoci, ciao. Allora, spazio agli amici da casa. Daniele da Firenze. Buonasera a tutti. Vai. Volevo solamente dire una cosa riguardo alla formazione iniziale. È da circa aprile-maggio che parliamo di questa partita. Sappiamo che dobbiamo andare in Spagna, che loro fanno, come diceva prima anche Demetrio, il palleggio quando gioca nell'Atletico, tutto quello che vuole. A qualsiasi allenatore nel mondo, con qualsiasi metodo giochi, le partite le vince a centrocampo chiunque, in qualsiasi maniera, in tutte le epoche. Mondocane si è presentato con due centrocampisti soli, cioè anche voler provare un giovane che l'ha provato, lui è stato tra i primi a mettere Gagliardini se non il primo, ma perché presentarsi con due centrocampisti in Spagna? Ma perché credo che Gagliardini ad esempio in questo momento non sia semplicemente in condizione, ha perso il posto anche nell'Inter. Allora io leggo chi aveva ieri sera l'Italia in panchina: Donnarumma, Perina, Astori, Rugani, Conti, D'Ambrosio, Parolo, Pellegrini e Sharawi. Quindi a centrocampo avevamo Parolo e Pellegrini, perché poi gli altri tre che sono entrati erano Bernardeschi, Gabbiadini ed Eder. Parliamo anche di questo, no, Pier? Sì, ma guarda, parliamo di questo sicuramente. Ora, la sensazione, con tutto affetto per Ventura e per il fatto, come dicevi tu giustamente prima, che poi le vittorie hanno mille patrie, le sconfitte sono sempre orfane, quindi poi il giorno dopo è facile sparare sul conducente, però insomma sicuramente un po' di improvvisazione sembra che ci sia stato, sembra, poi magari non è così, nel senso che comunque si è andato lì con un modulo ci ha portato a rischiare tanto, e quindi voglio dire, chiaramente è come quando fai all-in a poker, o va bene o va malissimo, è andato malissimo, c'è poco da fare. Poi la sconfitta può essere onorevole, però ieri non lo è stato. Ieri si è vista una squadra che ha provato a imporre la qualità del suo gioco, ma non era in condizione dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista, secondo me, della preparazione, dell'organizzazione tattica. C'è poco da fare da questo punto di vista. Sì, cioè, però poi Pier, era facile immaginare. Conosciamo, ripeto, sì, era facile immaginare, conosciamo poi benissimo la Spagna perfettamente. Le partite le vinci e le perdi con loro a centrocampo. È chiaro che se ne lasci due contro tutti gli altri, hai pari gli attaccanti che tornano, i difensori che salgono, ti aprono in due. Il punto è che nel calcio c'è bisogno sempre comunque di equilibrio. Puoi giocare pure 4-2-4 se c'è equilibrio e se c'è sacrificio, come diceva Demetrio prima. Ieri non c'è stato, quindi il punto fondamentale è questo qui. È chiaro che è un modulo che ti espone a dei rischi, che ti lascia teoricamente più talento in campo. Insomma, fino a ieri mattina, ieri pomeriggio, è pieno di tweet, di dichiarazioni anche dei colleghi, anche uno mio, cioè voglio dire, Insigne fuori, come potevamo lasciarlo? Cioè, adesso non facciamo, non saltiamo sul carro adesso del... Ah no, stanno scendendo tutti, rapidissimamente. Noi ci stiamo su. Non me ne frega niente di salire sui carri o di scenderci. Io credo, francamente, te l'ho detto qualche giorno fa, pensavo che fosse un azzardo. Però è anche vero che comunque mettiamo in campo del talento. Pensavo che arrivando a una scelta di questo tipo, come ci aveva annunciato, e faccio un applauso pubblico a Alessandro Alciato 2 o 3 giorni fa, che è stato il primo a dire che avremmo giocato con questo modulo, ci fosse dietro una organizzazione, una struttura, un modo di stare in campo, una condizione fisica tale da poter supportare un modulo così intrigante ma anche così pericoloso. Sì, oppure semplicemente alle volte le cose vengono diverse da come le hai pensate. Allora, c'è chi ci scrive: è difficile dire che non si possono fare esperimenti di questo tipo con la Spagna al Bernabeu. Ripeto, in panchina avevamo a centrocampo Parolo e Pellegrini. Io sono sicuro che Ventura sarebbe stato lapidato in pubblica piazza se avesse perso lasciando fuori Insigne, facendo giocare Parolo o Pellegrini. Magari mi sbaglio, eh? Enrico da Pisa, Enrico. Sì, salve, buonasera. È solo una stranezza, non ha certo colpa lui, però ho visto, anzi ho sentito, che ieri sera Immobile non è mai stato citato neppure dal telecronista. Sì, tu dici non ha giocato un granché bene, dai. No, Immobile proprio non ha toccato palla, non è nemmeno retrocesso per guadagnare qualche palla e via discorrendo. Io direi piuttosto, al di là delle critiche, cioè è inutile cercare di imitare loro col palleggio, che sono di un altro pianeta, non abbiamo sicuramente quelle caratteristiche. Direi piuttosto che dovrebbe giocare l'Italia, come si dice dalle nostre parti, gioca come mangi. La ringrazio. Grazie a te Enrico. Guarda, ti leggo anche un altro messaggio. Pier, come fate a dire che il bello ma inefficace Verratti è preferibile al geometrico Giorginio? No, ma guarda, Giorginio è un giocatore che per le caratteristiche che ha di geometria, io l'ho commentato contro il Nizza, l'ho visto in questa prima uscita di campionato, quando sta bene è un giocatore utilissimo, ovviamente inserito in un certo tipo di ruolo. Verratti è un giocatore che abbiamo visto giocare in alcuni momenti della sua carriera a dei livelli da top player assoluto, quindi poi dipende molto sempre dalla condizione. Il Giorginio di Napoli-Nizza me lo porto tutta la vita titolare in qualsiasi squadra, perché è un giocatore di grande geometria, di grande esperienza, anche di grande saggezza tattica, quindi da questo punto di vista non ci sono particolari dubbi. Però ti ripeto, poi alla fine conta il risultato. Io sono d'accordo con te, se noi avessimo perso 3-0 senza questo Pellegrini modulo, senza Insigne, che chiaramente è il talento, per me rimane, nonostante la brutta partita di ieri, in questo momento il talento più brillante, no? Il giocatore il processo ci sarebbe lo stesso, Pier. Ci sarebbe lo stesso. Ecco, Fabio dalla provincia di Perugia, dai Fabio. Sì, salve, buonasera. Vai. Senti, io volevo dire la mia riguardo la nazionale, rispetto a un argomento che è stato trattato all'inizio, il fatto che il campionato italiano sia di un livello abbastanza basso al momento. Secondo me non è tanto un problema di modulo, ma è proprio un problema di giocatori. Se ci date Immobile, io sono tifoso da Lazio, però Immobile all'estero non mi sembra che sia molto conosciuto. Lo stesso Belotti, rapportati ai giocatori che, come ha detto Ventura, hanno fatto finale di Champions, mi sembra che effettivamente il livello della nostra nazionale sia abbastanza basso. Sì, poi qualcuno ricorda che con un livello ancora più basso all'europeo 14 mesi fa Conte la Spagna l'ha messa sotto, però poi le torte non sempre vengono uguali. Abbiamo il traffico, saluto Carlo Genta. Ciao, che ragazzi, trovate domani dopo il giro delle 14. Anche tu Pier. Ciao, però qua, per lui resta qui. Io sono in piena premiazione, quindi magari c'è momenti mi assetterò un po', però poi ci collegheremo anche con Courmayeur, dove oggi si sta presentando ancora una volta al Nord la Ryder Cup di golf, che sarà questo grande evento del 2022. Presente che batte le mani in questo momento, tra poco ci ritiriamo. Dai, torniamo, c'è anche Ciccio Graziani. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Tutti convocati. Questa sconfitta dice che la Spagna sicuramente in questo momento qua è nettamente superiore sia fisicamente che qualitativamente, infatti l'hanno dimostrato sul campo. Anche se fondamentalmente nel primo tempo avevano subito la punizione e il tiro di Isco, altre occasioni nitide non l'hanno avuta. Abbiamo avuto il mio colpo di testa, però la partita comunque era in bilico, e che la differenza comunque l'hanno fatta veramente la loro condizione. Ci sono giocatori che sono di un altro pianeta. Questo era Andrea Belotti, che tra l'altro è stato insieme a Candeve e Darmian l'unico a recuperare qualche sufficienza. Credo abbia preso 6 sulla Gazzetta dello Sport. Saluto Ciccio Graziani. Ciao Ciccio. Ciao, eccomi qua. C'è Pierluigi Pardo. Che voto dai tu a Belotti per la partita di ieri sera? Un 6 e mezzo per l'impegno. Poi palle giocabili ne avute poche. Ha fatto un colpo di testa che meritava miglior sorte, ma poi per il resto si è visto poco anche lui. Anche lo stesso Darmian, ma ha spinto molto su quella fascia, però non ha prodotto poi nessun tipo di risultato, purtroppo. Sì, io però trovo ingeneroso chi scrive oggi, non parlo di giornali, parlo di tanti tifosi, che si è dimostrato che Belotti non è un giocatore di livello internazionale, poi pesa i 100 milioni della clausola che gli sono stati appiccicati addosso quest'estate. Assolutamente, assolutamente no. Nel computo del valore dei prezzi che ci sono oggi su questo mercato, li vale tutti questo ragazzo, al di là della partita, al di là della partita di ieri. Ma la partita di ieri ci ha detto sostanzialmente una cosa: la Spagna, soprattutto in casa, gioca nettamente meglio di noi, hanno questo fraseggio, questa qualità di palleggio, non ti fanno correre a vuoto. È vero che anche loro nel primo tempo avevano avuto poche opportunità, ma avevano spinto molto più di noi, era logico, ma soprattutto viene questo possesso palla, e tu quando non ce l'hai tu la palla è difficile mettere in difficoltà gli avversari. Loro avevano questa grande qualità di questo fraseggio e sono eccezionali, sono bravissimi. Pier, su Belotti? Non c'è Pier? Adesso lo recuperiamo, perché entriamo anche a parlare dei singoli. Tra l'altro, tra le prestazioni più contestate, carissimo Ciccio, c'è stata anche quella di Buffon. Allora, io leggo la pagella della Gazzetta, che credo gli abbia dato 4,5, però la cosa davvero graffiante è nel commento la domanda che ha chiuso la pagella, cioè se rattaccia o declino. Tanti ci stanno scrivendo: perché non dite che Buffon ha preso un gol, il primo, che non doveva prendere? Ma il gol primo lo poteva prendere se fosse partito un attimo prima, se avessi intuito che la palla poteva passare lì. Ma effettivamente è vero, rivedendo le immagini ci siamo accorti che è partito con un attimo di ritardo, e quell'attimo purtroppo è stato fatale, non c'è niente da dire. Però c'è stata quella sbucciata su quel pallone indietro di Verratti, ma io poi credo che a Buffon gli si possono dare pochissime colpe, anche perché l'unica responsabilità è sulla punizione, poi sugli altri gol non c'entra assolutamente nulla. Anzi, ha fatto su Carvajal in uscita, ha fatto una ottima parata, però è chiaro che sulla punizione è partito un po' in ritardo, questo è vero. Ma oggi Buffon è il miglior portiere italiano ancora? Dai, vado dritto, sì. Vado dritto per dritto. Secondo me sì, è ancora il più forte portiere, non solo in Italia ma anche in giro per il mondo, anche se ce ne sono altri molto bravi. Ma abbiamo già la fortuna di avere un erede che è Gigi Donnarumma, e quindi sotto quell'aspetto lì siamo contenti. L'unica cosa che vorrei rimarcare è che dopo il primo tempo, un primo tempo giocato in quella maniera, ma che Ventura non si sia accorto che mancasse qualcuno in mezzo al campo a recitare un ruolo da centrocampista, questo mi sembra una cosa esagerata, anche perché se fai giocare Insigne come l'ha fatto giocare lui, lo penalizzi, perché Insigne non può fare 80 metri di campo avanti e indietro con il talento che ha. Io pensavo alla fine del primo tempo che togliesse Candreva per mettere un altro centrocampista e magari fai un 4-3-3. Oppure cioè, tu avresti messo credo Parola, perché l'abbiamo letta prima la panchina d'Italia, c'erano Parola e Pellegrini, poi c'era Montolivo in tribuna, quindi questi tre c'erano come alternativa a centrocampo. No, Pellegrini, no. O Parola, togli, devi avere il coraggio di togliere magari Immobile e fai un 4-3-3 con tre centrocampisti che fanno bene, con Insigne che recita il suo ruolo naturale come può succedere a Napoli nella sua squadra di club, e Belotti centravanti e Candreva rifornirlo sugli esterni, come gioca tra l'altro nella sua squadra di club. Ieri Candreva ti dava una mano in mezzo al campo, ma non era sufficiente, perché loro con quel fraseggio, con quel palleggio, erano sempre in superiorità numerica e poi non sbagliano mai un passaggio. E Insigne che doveva sobbarcarsi un lavoro che di solito non se lo sobbarca quando gioca nella sua squadra di club. Andrea dalla provincia di Brescia. Andrea. Sì, buonasera a tutti. Noi facciamo sempre far bella figura alla Spagna. Prandelli alla prima partita con gli europei aveva fatto un 3-5-2, De Rossi al centro della difesa, abbiamo rischiato anche di vincere. Poi abbiamo voluto fare gli splendidi e ne abbiamo prese 4. Poi è arrivato Conte, li ha imbavagliati ancora e col contropiede li abbiamo fatti fuori. Ieri Ventura è caduto ancora nello stesso errore. Sì, però io, Andrea, penso ci sia una profonda differenza tra il 4-0 preso nella finale di Kiev e la partita di ieri. Il 4-0 alla finale di Kiev, io non so se Ciccio Graziani è d'accordo, non fa testo, siamo arrivati che non stavamo più in piedi, calendario, scelte logistiche, è stata una non partita. Sono d'accordissimo, ma poi nel tempo cambiano gli uomini, cambiano i calciatori, cambia la qualità. Ieri, ripeto, si poteva fare di più, magari con un atteggiamento tattico un pochino più accorto. Ecco perché io dico, siccome loro facevano grande superiorità, soprattutto in mezzo al campo, non avendo un centravanti o due attaccanti di riferimento, con il loro movimento creavano superiorità numerica e noi eravamo sempre in difficoltà. E quando non prendi palla, se tu hai una squadra che fa il 70% di possesso palla contro il tuo 30%, ma loro hanno sicuramente più opportunità, perché le squadre sono pericolose quando hanno il pallone tra i piedi, non quando non ce l'hanno, anzi, quando non ce l'hai spendi energie per andarla a recuperare. Ecco perché io dico, forse un 4-3-3, volendocela giocare a viso aperto, poteva essere lo schieramento tattico migliore. Allora, è tornato Pierluigi Pardo, proviamo a buttare un attimo l'occhio avanti. L'Ucraina, sì, no, la Croazia, perdonatemi, ha battuto il Kosovo 1-0, oggi c'era il recupero, ieri partita sospesa per la pioggia, dunque la Croazia ha scavalcato l'Ucraina, il che significa che a oggi, finissero oggi i gironi, vale quello che vale, però insomma ve la diamo, le squadre qualificate per il playoff sarebbero Portogallo, Italia, Svezia, Slovacchia, Irlanda del Nord, Ucraina, Irlanda e Grecia, e dunque tra le potenziali avversarie degli azzurri, che sarebbero testa di serie finendo così, ma attenzione al ranking, ci sarebbero Slovacchia, Irlanda del Nord, Ucraina, Irlanda del Nord, Irlanda, Ucraina e Grecia. Chiedo a tutti e due, Pierluigi Pardo e Ciccio Graziani, dobbiamo aver paura? No, dobbiamo finire bene innanzitutto il girone per il ranking, blindando il posto tra le teste di serie, questo mi sembra fondamentale. E poi vuol dire fare almeno 7 punti nelle prossime 3. Sì, vabbè, però ragazzi, adesso sinceramente io arrivo anche, voglio dire, premesso che non posso immaginare un mondiale senza l'Italia, e solo pensiero non lo posso neanche veramente visualizzare, però voglio dire, se non facciamo il nostro dovere, se usciamo con la Grecia, con tutto rispetto, con l'Irlanda, mettiamo a casa, cioè Bisogna anche essere onesti da questo punto di vista, no? Quindi io credo che invece ci siano tutte le condizioni. Penso che da un certo punto di vista il cammino di Ventura, io leggevo nelle parole oggi della sua conferenza stampa anche un punto di verità, il cammino di Ventura fin qui non è stato un cammino catastrofico, è stato un cammino, che noi siamo nello stesso girone della Spagna è un'assurdità, diciamocelo apertamente. Ma è anche, è l'eredità lasciata da Conte e Prandelli, diciamolo senza troppi giri di parole. Per cui voglio dire, di tante amichevoli io snobbate. Mi ricordo una chiacchierata con Ventura pochi giorni prima dell'ufficializzazione del suo incarico, e lui era consapevole del fatto che il girone era complicatissimo. Cioè è un elemento che arrivare secondi dietro la Spagna non è, diciamolo apertamente. La partita di ieri è un gran brutto modo di perdere, su questo non ci sono dubbi. Ma c'è qualcuno che ci può far paura in questo playoff? Adesso noi, se restiamo testa di serie, non dovremmo prendere il Portogallo, e magari non prendiamo la Croazia se arriva seconda, la Svezia non si sa, la Slovacchia pure, non so, Ciccio. Portogallo e Croazia. Sì, ma qui ci vorrà, tanto bisogna finire bene come diceva Pierluigi, ma bisogna avere anche lì un pizzico di fortuna, perché se incontri l'Irlanda del Nord, incontri la Grecia, incontri la Slovacchia, beh, insomma c'è da avere sempre grande rispetto di tutti, ma noi siamo più forti in due partite, in una partita secca è più pericoloso, in due partite molto probabilmente ce la possiamo giocare meglio. Sì, sì, sulla carta non c'è nessuno, che, a parte il Portogallo e la Croazia, che ci possa davvero far paura. La chiave di tutto è restare teste di serie, e attenzione, non datelo per scontato, perché in questo momento, oggi, ma poi manca ancora la partita con Israele, l'Italia sarebbe 17esima nel ranking FIFA e quindi sarebbe a filo, da qui a ottobre sarà una volata in cui non si può assolutamente sottovalutare niente, nessuna partita, bisogna vincere e basta, anche perché si scartano dei risultati di vittorie fatti nell'estate, nell'autunno del 2014, quindi il meccanismo è complicato, ma attenzione perché ci abbiamo già sbattuto una volta e poi il sorteggio ci ha punito. Allora io ringrazio Pierluigi Pardo, grazie Pier. Sì, se poi ci sentiamo anche come vuoi tu, nel senso che io sono qua, come vuoi. Va bene, allora stai lì, tanto poi parliamo anche di basket, stiamo seguendo Lituania-Italia, 46-39 per la Lituania, 7-12 alla fine del terzo periodo. Grazie a Ciccio Graziani, ciao Ciccio, alla prossima. Ciao, alla prossima, ciao. Se avete voglia siamo ancora qui per un quarto d'ora, 800-24-0024, torniamo. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Convocati. sapevo che magari nel terzo, nel quarto quarto la difesa sarebbe stata un po' più fisica su di me. Quindi ho cercato, mi hanno cercato anche di levare il tiro da tre punti, quindi ho cercato solamente di cercare di trovare i miei compagni liberi. È un gioco di squadra, è un gioco che tutti quanti sappiamo quello che possiamo dare e tutti quanti noi sappiamo che tutti i 12 giocatori devono essere pronti a giocare e a dare un contributo. Lo stesso equilibrio che avrebbe dovuto esserci se avessimo perso queste due partite, la chiave a questo, in queste competizioni non c'è tempo per l'ansia né per l'euforia, è andata bene, felicissimi così, domani ce n'è un'altra, quindi non c'è veramente il tempo di festeggiare. Quella di domani, cioè quella di oggi, è la partita con la Lituania, che era cominciata benissimo, con l'Italia avanti praticamente per tutto il primo tempo, il primo periodo, raggiunta soltanto da un tiro da tre punti quasi su fil di sirena, 23 pari. Ora partita che si è un po' complicata, in questo momento c'è il time out, Italia che sta costantemente sotto di una decina di punti in questa terza fase della gara contro i lituani, 53-41 in questo momento il risultato. Saluto Attilio Caia, coach di Pallacanestro Varese, ciao Attilio. Ciao, buongiorno a tutti. Ecco, io ho dato prima due dati, intanto ho dato dei rimbalzi 29-15 per i lituani e poi sta leggermente migliorando ma resta comunque quasi deficitaria la percentuale da 2 della nostra nazionale, 8-23, 35%, così diventa difficile vincere con i lituani. Sì, ma in questi dati sono abbastanza diciamo difficili da combattere, perché davanti alla fisicità degli avversari ogni giocatore italiano ha davanti nel suo ruolo un avversario almeno 4-5 centimetri più alto, quindi devi cercare sempre di rincorrere, cioè aiutare un compagno perché è in difficoltà, allora aiutando e ruotando rischi di rimanere scoperto al rimbalzo. E dopodiché questo vale anche un po' per i tiri da due, perché loro quando vanno vicino a canestro hanno bisogno di, possono diciamo muovere la palla un po' più liberamente, non perché la difesa faccia male, anzi sta facendo benissimo, però è chiaro diventa un po' una coperta corta quando nel primo tempo la Lituania fa 8-16 da tre punti, è chiaro concedi qualcosa da lì e ti scopri sotto, per quello che la difesa d'Italia pur facendo benissimo fa quello che può, però loro hanno una forza fisica molto importante. Sì, cosa ci sta raccontando? Questa è la partita diciamo più complicata del girone. Cosa ci sta raccontando di questa nazionale? Ma ci sta raccontando che l'Italia fa al massimo di quello che, che può fare. Obiettivamente è una squadra che deve difendere molto e che in attacco deve trovare delle alternative a quello che possono essere il tiro da fuori di Datome e il tiro da fuori di Belinelli, ecco, perché loro la loro presenza la fanno, dopodiché partono bene ogni partita, le difese si possono adeguare. Sotto canestro non abbiamo un gioco tanto importante perché i lunghi vengono coinvolti solo diciamo per essere dei passatori, non hanno le caratteristiche per concludere, tranne che Melli, che però le sue conclusioni le prende anche più da fuori. È chiaro che c'è bisogno, come è stato in altre partite, Filloi che faccia una buona partita, che non è un giocatore che tira ma innesca i compagni. È chiaro che c'era bisogno che tutti facessero una partita forse anche sopra il loro livello. Sì, do un po' lo score, da Tome 15 punti, fin qui è il miglior marcatore degli azzurri, poi ci sono i 7 punti di Hackett e Belinelli che era partito benissimo nei primi minuti del primo periodo e poi via via tutti gli altri, da Tome che dopo aver fatto fatica oggettivamente in tutta la fase di preparazione in questo europeo ha trovato confidenza con il canestro e credo che questa sia una delle notizie più belle che ci possiamo portare. Sì, poi dopo non c'è neanche niente di casuale, D'Antome è il giocatore che ha vinto l'Eurolega e quindi un giocatore che ha avuto un ruolo anche importante, quindi alla fine anche l'esperienza ha la sua importanza. Ci sono tanti giocatori, quelli cui citavo prima, che sono esordienti in partite in un campionato così importante, addirittura esordienti anche nelle coppe, non si improvvisa niente e quindi dicevo prima, forse ci deve aspettare qualcosa da giocatori dalla panchina, ma qualcosa però che potrebbe anche essere sopra al loro livello di quello che potessero dare, perché anche oggi la panchina della Lituania rispetto alla panchina dell'Italia ha fatto la differenza. I quintetti stavano giocando alla pari, quando si è dovuto andare un po' con le rotazioni la panchina loro ha fatto la differenza. Questo non però per colpevolizzare i nostri, quanto per dei dati di fatto. Esperienza Kuzminska, quello che ha fatto un po', un giocatore importante, è 5 ogni 7-8 anni che gioca l'Eurolega ad alto livello. Sì, sì, per mettere un numero a questo discorso, ho visto il dato: dopo i primi 20 minuti la Lituania aveva scavato 19 punti dalla panchina contro i due dell'Italia, e credo che questa sia la sintesi del discorso che stava facendo Attilio Caia. Intanto ancora canestro per la Lituania, 57-45, quando mancano 2:35 alla fine del terzo tempo. Scrive un amico: non abbiamo bisogno delle stelle NBA, quest'Ital Basket di lotta e umiltà andrà lontano. Io credo che avrebbero fatto comodo, eh. Beh, insomma, in stare NBA poi manca solo Gallinari, perché poi Bellinelli sta facendo bene la sua parte. Gallinari sarebbe stato un giocatore molto importante, però purtroppo non c'è. Devo dire che nel ruolo di Gallinari Datome e Melli hanno fatto molto bene. È chiaro che sarebbe stato un giocatore in più nelle rotazioni, quello è anche vero, però purtroppo di quelli che non ci sono non è anche giusto parlare, perché si toglierebbe la vetrina a quelli che ci sono, che adesso stanno facendo, ha fatto molto bene le due partite, e anche oggi stanno facendo una partita dignitosa. Quindi oggi se è avanti per adesso a Lituania perché è più brava, non per colpa o demerito dell'Italia. Sì, siamo solo all'alba. C'è qualcuno, qualcosa, qualche squadra che ti ha impressionato in questo europeo? Ma diciamo che la Slovenia, ecco, forse la Slovenia è una squadra che anche storicamente, però fino adesso è impressionato, però devo dire che anche storicamente le prime fasi, i primi gironi li faceva bene, salvo poi perdersi strada facendo, che poi strada facendo, quando conta veramente, quando ci sono gli scontri diretti, quando le partite dicono che chi vince va avanti, chi perde va a casa, ci vuole qualcosa in più del fattore tecnico, qualcosa in più a livello emotivo, a livello caratteriale, e spesso gli sloveni si perdono. Vediamo quest'anno se riescono a fare. Fino adesso hanno fatto sicuramente qualcosa di più loro, e anche la Finlandia ha dimostrato di essere una squadra solida, giovandosi anche di fare la prima fase di eliminatorio in casa. È ancora lunghissima, però. Grazie a coach Caia. Grazie a voi. Grazie coach, è stato davvero sempre un piacere. 57-45, 1:44, e poi ci sarà l'ultimo periodo. Franco da Bormio. Franco. Una buona serata a tutti i convocati. Buonasera a te. Alla Società Nazionale di Basket. Vai. Io volevo parlare momentaneamente di Formula 1, ritornare un attimo sull'argomento di Monza e il risultato della Ferrari. È un mistero dove la Mercedes vada a prendere tutti questi cavalli di potenza, ma forse questo strano sistema di consumo di olio, probabilmente additivato con qualche antidetonante o qualche altro sistema, consente alla Mercedes di avere dei secondi a questo punto di vantaggio in fase di accelerazione. Volevo sapere cosa ne pensate voi. Ma io penso che l'olio, ma ne parlavamo prima con Umberto Zappelloni, probabilmente in questo weekend non ha giocato un ruolo decisivo, poi vedremo nel prosieguo del campionato. Di sicuro la Mercedes ha omologato l'ultima unità, l'ultimo motore, e di qui non potrà fare sviluppo. Questa potrebbe essere una carta invece a favore della Ferrari nella volata mondiale dei prossimi 7 Gran Premi, ma saremo qui insomma a raccontarla già a partire da Singapore. Allora, io vi racconto anche che, a proposito di calcio, questa sera ci sono altre partite per la qualificazione mondiale, e c'è una squadra europea che potrebbe qualificarsi, è il Belgio. Dovesse vincere in Grecia questa sera ore 20:45, Belgio che staccherà il pass per la fase finale vincendo, oppure comunque sarebbe un passo dalla qualificazione anche pareggiando contro la Grecia, dato che la differenza reti è nettamente superiore sia a quella della Grecia che a quella della Bosnia. E poi, per chiudere, la Vuelta di Spagna, oggi c'era la 15ª tappa, ha vinto Miguel Angel López, Froome ha guadagnato 6 secondi su Nibali, e dunque a questo punto il suo vantaggio è di 1 minuto e 1 secondo. Vantaggio invece della Lituania, che è di 10 punti, 57-47, quando manca 1 minuto alla fine del terzo tempo. Noi abbiamo finito, ci fermiamo qui. Tutti i convocati torna domani dopo le 14 con Carlo Genta e Luigi Pardo. Noi invece ci risentiamo domenica prossima alle 17. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Valeria Bernardi e Pietro Lacorte in regia. A domenica prossima, ciao. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.